Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. I nomi dei tre ascoltatori che partiranno il prossimo ottobre per l'Europarlamento di Strasburgo, grazie all'iniziativa Giovani Talenti in Europa, saranno il piatto forte di questa trasmissione. Tra poco ve li sveleremo in una puntata assolutamente esotica, vi porteremo infatti fino in Brasile e lo faremo riprendendo il filone delle esperienze di studio all'estero. Oggi torniamo a parlare di studenti delle scuole superiori che partono per trascorrere un anno lontani dall'Italia. A completare il menù le vostre lettere e soprattutto la rubrica Eures con le ultimissime opportunità di lavoro in Europa. Puntata come sempre, insomma, da non perdere. Giovani Talenti. E la frase della settimana è copyright del ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Nel 2017 sarà il quarto anno di crescita consecutiva, tuttavia il livello di crescita raggiunto non ci entusiasma, non ci possiamo dire soddisfatti. Così Padoan, secondo cui il tasso di disoccupazione è inaccettabilmente elevato, specialmente tra i giovani. Ci sarebbe anche un altro piccolo problema, per esempio trovare le poche occasioni di lavoro possibilmente qualificate in circolazione. Almeno nelle modalità l'Italia non si muove proprio ancorata come a certi retaggi medievali. Il canale che più frequentemente ha portato a un esito positivo nel trovare impiego resta infatti il ricorso alla rete di parenti o amici, lo denuncia l'Istat. Così infatti ha trovato il lavoro il 41,9% dei 25-34 anni che non erano occupati l'anno prima. Molto staccate le altre modalità decisamente più moderne, quali la candidatura diretta al datore di lavoro. Solo l'8% si è rivolto ad agenzie interinali o ad altre agenzie private di intermediazione e solo il 2,5% degli occupati ha trovato lavoro attraverso i centri pubblici per l'impiego. Stiamo però molto attenti a rivelare queste nostre consuetudini un po' tribali alle migliaia di giovani che tra scuola e università si stanno formando all'estero, vivendo oltre confine i loro anni migliori. Potremmo scoraggiarli o spingerli a emigrare fin da subito. Per me è stato abbastanza facile integrarmi. Gli anni sono molto accoglienti, anche la lingua non è stata sicuramente un ostacolo perché è abbastanza simile all'italiano. Andrea Maselli, 17 anni, è uno studente delle scuole superiori in scambio studentesco in Brasile. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Cresce il numero di laureati che trovano lavoro a un anno dal termine degli studi, sono il 68% dei dottori triennali e il 71% dei laureati magistrali biennali, un miglioramento, seppur lieve, evidenziato dal rapporto 2017 al Malaurea. Il 10% dei laureati 2016 ha poi svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso di provenienza e la quasi metà dei laureati si dice pronta a trasferirsi per lavoro lontano dall'Italia. Il presidente di Almalaurea, Ivano Dionigi, al microfono di Maria Piera Ceci. Le aziende devono assumere laureati perché gridano che non ci sono laureati, anche tecnologi. Questa è una verità, l'altra verità è che ci sono, che vanno all'estero perché li assumono e li pagano meglio. Tant'è vero che i manager che guidano le industrie straniere sono i laureati del 57% contro il 25% degli italiani. Mi soffermo un attimo proprio sui laureati che vanno all'estero. Intanto aumenta il numero dei giovani che fa un'esperienza di studio all'estero durante il proprio percorso. Sì, pur non raggiungendo l'obiettivo di Lisbona, che nel 2020 del 20%, ecco, c'è un miglioramento dei giovani che vanno all'estero e questo comporta anche un apprendimento di lingue straniere, l'altro segno più. E poi coloro che invece si laureano in Italia, magari avendo anche fatto un'esperienza all'estero, vanno a lavorare all'estero perché trovano più lavoro e soprattutto sono meglio retribuiti. Sì, questo avviene già dall'immatricolazione. La fuga avviene sia dopo la laurea o il dottorato, ma avviene dai fratelli minori ai 18 anni, vanno all'estero perché hanno già la prospettiva del lavoro. E la Calabria è la regione del vecchio continente che lo scorso anno ha fatto registrare il maggior tasso di disoccupazione giovanile, 58%, lo afferma Eurostat. Peggio solo Ceuta e Melilla, le due enclave spagnole in terra d'Africa, a seguire nella top 10 della disoccupazione giovanile Andalusia, Sicilia e Sardegna. Esperienze di studio all'estero per gli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado, potenziamento linguistico con esperti madrelingua, approfondimento della conoscenza sull'Europa. Sono le attività che le scuole potranno realizzare grazie alle 80 milioni di euro stanziati dall'avviso PON per il potenziamento della cittadinanza europea, lo rende noto il MIUR. E parliamo di Erasmus. In un anno la mobilità degli studenti all'estero è cresciuta del 10%. Quasi 34.000 giovani hanno potuto contare su 1.000 borse di tirocinio in più per sperimentare stage in aziende oltre confine. La Spagna resta tra le destinazioni preferite dagli studenti italiani, ma crescono i soggiorni di studio nei paesi dell'Europa orientale. Sono i risultati del programma europeo più famoso che festeggia i suoi 30 anni. Siamo finalmente arrivati al momento tanto atteso, quello dell'annuncio dei tre ascoltatori che, grazie ai loro racconti sulle esperienze di lavoro e studio in Europa, potranno partire a ottobre per l'Europarlamento di Strasburgo. Grazie alla collaborazione tra Radio 24, Giovani Talenti e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano. Allora, i tre racconti, oggi ve lo possiamo annunciare, sono stati firmati da Edoardo Riba, 25 anni, di Torino, Marta Pietrosanti, 22 anni, di Roma, Flavia Victoria Hayes, 18 anni, di Mantova. Buon viaggio e alla prossima edizione di Giovani Talenti in Europa. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta in Brasile. Ve la immaginate come meta di studio all'estero fin dalle scuole superiori? C'è chi lo ha fatto, ci è andato e oggi ci racconta la sua storia. Nome: Andrea. Cognome: Maselli. Età: 17 anni. Città di origine: Rutigliano, in provincia di Bari. Studi: Istituto Tecnico. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2016. Per andare dove? A Su, Brasile. Perché? Per conoscere una nuova cultura. Cosa studi attualmente? Sono in una scuola superiore. Dove? Enzo, una scuola privata. Cosa farai da grande e dove lo farai? Il mio sogno è di essere macchinista. Sul dove ancora non ho progetti, ma sicuramente dove mi porterà il lavoro. Da ormai 9 mesi vivo lontano da casa, dalla mia famiglia, dai miei amici, da tutto ciò che per 16 anni sono stato abituato a vedere e a fare. Così Andrea riassumi la tua condizione di expat per studio, vissuto in un paese molto particolare che appartiene alla memoria storica delle migrazioni italiane, meno però a quella recente, il Brasile. Qual è l'insegnamento più grande, Andrea, il valore aggiunto maggiore di cui sei grato al tuo paese adottivo? Sicuramente di vivere la vita molto più serenamente e con allegria, che è la caratteristica immancabile dei brasiliani. Originario della provincia di Bari, studi informatica alle scuole superiori, cosa ti ha fatto decidere a un certo punto di lanciare una sfida a te stesso partendo per un anno di studio all'estero? Ma in realtà è stata una cosa che è successa abbastanza rapidamente. Ho conosciuto Intercultura durante una presentazione nella mia scuola e da subito mi hanno attratto le varie esperienze dei ragazzi. Secondo me è stato in quel momento che ho lanciato la sfida contro me stesso e deciso di provare a partire verso una nuova cultura. Tra l'altro il Brasile è stato quasi una scelta di riserva. Cosa ti ha incuriosito? Inizialmente in lista avevo tutti i paesi del nord Europa. Terminata la lista ho visto che insomma mancava ancora un paese per arrivare ai 10 paesi che sono il limite massimo. E ho iniziato a leggere le varie esperienze. Quelle sul Brasile mi hanno incuriosito sin da subito e decisi di inserirlo in lista, addirittura al 4º posto. Ed è curioso notare come approdi in Sud America nei giorni dell'apertura delle Olimpiadi di Rio. Allora, che paese hai trovato ad accoglierti? Ad accogliermi ho trovato un paese molto agitato e pronto a tifare il Brasile in qualsiasi sport. Tutti erano incollati là alla TV per non perdere nemmeno uno sport in cui c'era la squadra brasiliana, cosa che difficilmente ho visto in Italia. In quale città sei approdato? Ce la descrivi molto molto brevemente? Sono arrivato in Assu, una città ma grande di 60.000 abitanti. Nonostante il numero elevato di abitanti, è considerata da tutti una grande città conosciuta in tutto il nord-est del Brasile. Prima di arrivare alla scuola, partiamo dalla famiglia ospitante, anche dal contesto sociale. È stato facile per te integrarti? Sì, per me è stato abbastanza facile integrarmi. I brasiliani sono molto accoglienti, anche la lingua non è stata sicuramente un ostacolo, perché è abbastanza simile all'italiano. È molto interessante l'analisi che fai del sistema scolastico brasiliano. Ci sono 3 tipi di scuola. In sintesi, le differenze? Esistono, sì, 3 tipi di scuola: la scuola pubblica, privata e federale. La migliore fra le 3 sicuramente è la federale, perché ha una formazione un po' più specifica ed è l'unica che permette di avere vari indirizzi di studio. Tra scuola pubblica e privata l'unica differenza è che la privata offre un servizio leggermente migliore rispetto alla scuola pubblica, perché gli alunni pagano una quota mensile. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti, Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Andrea Maselli, 17enne studente delle scuole superiori che sta frequentando un anno di scambio studentesco in Brasile. Un'esperienza che sta decisamente lasciando il segno nella sua formazione. Ci spiega lui stesso il perché. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Anche i sistemi di valutazione scolastica sono abbastanza diversi dai nostri, in che modo? L'anno innanzitutto è diviso in trimestri, per ogni trimestre ci sono almeno 3 prove scritte, non esistono le interrogazioni che ci sono in Italia. 2 di queste prove sono compiti in classe di 10 domande a crocette, mentre una consiste nella realizzazione di vari lavori, attività fatti in classe o a casa. L'altra differenza è che la sufficienza corrisponde al 7 e se non si raggiunge c'è la prova di recupero il cui voto andrà a sostituire il voto più basso. E chiudiamo con il rapporto professore-studente. Qui le differenze tra Italia e Brasile sono enormi. Perché? Sì, le differenze sono davvero abissali. Qui i professori sono nostri amici e sono davvero giovani, quindi sono parte di noi. Con loro scherziamo, giochiamo e perfino usciamo la sera per mangiare una pizza. Quali sono state le maggiori criticità invece del tuo adattamento in Brasile? Una delle difficoltà è stato il cibo. Da amante del cibo italiano e dei vari sapori, ritrovarmi in un paese con una cultura gastronomica molto differente è stato difficile. E poi sicuramente le temperature. In media qui al giorno ci sono dai 38 ai 39 gradi. Da grande resterai in Italia? Pensi invece a un futuro di lavoro all'estero? Sicuramente dove mi porterà il lavoro andrò. Penso di restare in Italia, ma vedremo. E la nostra domanda di rito per te, Andrea: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire? Stando qui in un paese che realmente ha bisogno di risolvere molti problemi, mi ha aiutato a dare il giusto valore alle cose che noi abbiamo in Italia. Ci sono sicuramente cose che non vanno, ma vivendo in un'altra realtà molto più difficile, posso dire che l'Italia, anche con i suoi problemi, ha davvero molte cose che funzionano bene. Se proprio devo trovare un difetto, io direi la scuola come luogo di amicizie e di incontri tra amici, perché secondo me bisognerebbe un po' promuovere, avere uno spazio magari fuori dove avere degli alberi, dei tavoli, dove gli alunni, gli studenti si possano riunire per fare attività, per studiare il pomeriggio. Ci raggiunge ora in linea Beatrice Tisato di Intercultura. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, sulla base, Beatrice, della storia di Andrea, proviamo a tracciare un profilo, un identikit del giovane studente potenzialmente idoneo a studiare un anno all'estero. Quali sono, secondo te, le caratteristiche essenziali? Le caratteristiche essenziali sono sicuramente la flessibilità, la curiosità, la fiducia nei propri mezzi e capacità di prendere iniziative, il desiderio di apprendere, la capacità di apprendere, l'abilità ad affrontare situazioni ambigue e confuse, l'interesse per persone diverse, per cultura, etnia, grado sociale, cioè rispetto delle diversità sostanzialmente, e poi l'empatia. Bisogna saper assumere anche il punto di vista degli altri. Abbiamo parlato molto di Brasile, Beatrice, finora. A chi consigli un'esperienza in Brasile? Quali vantaggi può offrire un'esperienza del genere in un continente diverso dal nostro? Un'esperienza in Brasile, io in genere quando seleziono i ragazzi in partenza consiglio un'esperienza in America Latina, mi accerto che siano ragazzi con voglia di mettersi in gioco, ragazzi avventurosi, ragazzi socievoli e con un certo grado di predisposizione verso il sociale. Mentre invece, per esempio, se parliamo di ragazzi che vogliono andare in Asia, ecco che qui in questo caso è una maggior riservatezza, si adatta maggiormente alle culture asiatiche ed anche un alto grado di valutazione degli studi e della scuola. È interessante notare come a caratteri si possa abbinare anche continente o paese. Tu sei volontaria da oltre 20 anni nel selezionare ragazzi in partenza per l'estero e formandoli. Tecnologie e globalizzazione hanno cambiato molto il mondo in questi 20 anni. I ragazzi che partono oggi, ti chiedo, sono più consapevoli e globali rispetto ai primi che hai formato? Sicuramente sì, erano molto bravi e molto in gamba anche quelli di 20 anni fa, però quelli di oggi sentono l'anno all'estero, l'idea dell'anno all'estero come una vera e propria necessità, cioè si rendono conto che vivere nel mondo di oggi globalizzato, interconnesso, richiede davvero che si acquisiscano delle capacità di interagire con il prossimo molto diverso da noi, perché serviranno un domani al loro futuro, al loro lavoro, ai loro studi, alla loro vita sostanzialmente. Grazie a Beatrice Tisato. E domanda di rito per Andrea Maselli: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento sta pensando di andare a studiare all'estero? Sicuramente di buttarsi, di mettersi in gioco e vivere al meglio l'esperienza, perché aiuta davvero a crescere e aprire la mente, e sicuramente tutto ciò che si impara durante quest'anno servirà nel futuro scolastico e lavorativo. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi le ultime dall'Agenzia Europea per l'Impiego EURES. Ogni due settimane vi forniamo dritte utili per andare a lavorare in Europa. Maurizio Barraco di EURES Italia. La regione Sicilia e Malta oggi rappresentano due sorelle che fanno parte di una grande famiglia chiamata Europa. I rapporti con Malta sono eccezionali e le offerte di lavoro sono svariate, che vanno dal settore dell'edilizia, abbiamo le offerte per ingegnere responsabile della sicurezza, nel settore dei trasporti si ricercano con urgenza autisti di bus, o nel settore dell'informatica, specialisti in reti informatiche, sviluppatori di software, tecnici di rete e sistemi informatici, nel settore sanitario si ricercano infermieri, sia per le strutture pubbliche che private, nel settore turistico e della ristorazione. Veramente tante le offerte di lavoro. Naturalmente il candidato che intende proporre la propria candidatura deve essere in possesso di un requisito fondamentale, la conoscenza dell'inglese. In ogni caso, per tutti coloro che sono interessati alla mobilità europea, suggerisco di raggiungere il consulente EURES più vicino a loro per avere una consulenza personalizzata, un colloquio di orientamento, attenzionare le tante proposte di lavoro, valutarne il possesso dei requisiti richiesti e, se ritiene di esserne in possesso, candidarsi per partire e magari, auguro, un domani di ritornare più forte di prima. Il servizio EURES è un servizio gratuito in quanto servizio pubblico, e chi intende eventualmente candidarsi per le varie offerte presenti può inoltrare la propria candidatura al EURES@regione.sicilia.it. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Come ogni ultimo sabato del mese, vi proponiamo una tra le decine di lettere che inviate settimanalmente alla casella di posta giovanitalenti@radio24.it. Per il mese di maggio abbiamo scelto quella che Roberta ci ha mandato da Lisbona. Un inno al viaggio e alla scoperta dell'altro. Lettera davvero imperdibile da ascoltare fino all'ultimo secondo. Voi intanto continuate a scriverci, raccontandoci le vostre opinioni sul fenomeno dell'emigrazione all'estero dei giovani italiani, oppure imbucando le vostre denunce. giovanitalenti@radio24.it è l'indirizzo giusto. Mi chiamo Roberta e sì, sono anch'io un'italiana espatriata. Mi trovo a Lisbona, dove sto facendo un servizio volontario europeo, uno dei tanti progetti offerti nell'ambito del programma Erasmus+, nel Dipartimento Sociale di uno degli uffici comunali. Da quando ho 16 anni ho svolto un periodo di studio in Australia, ho fatto volontariato in Messico, l'Erasmus+ in Croazia e ho frequentato alcuni corsi di formazione per l'Europa. Perché? È vero, anche io ho avuto esperienze lavorative o scolastiche molto negative in Italia, che mi hanno probabilmente spinto ad allontanarmi, a esplorare l'ignoto e a cercare nuove opportunità. Ma in questa lettera non voglio soffermarmi sull'aspetto negativo dell'Italia, piuttosto sull'immensa opportunità che io, noi, stiamo avendo vivendo all'estero. Ho conosciuto persone di qualsiasi nazionalità, religione o credo, personalità ed addirittura diverse gestualità, con diverse situazioni familiari e percorsi alle proprie spalle. In ciascuna di queste attività che ho svolto per il mondo, ho conosciuto persone che non avrei mai avuto l'opportunità di conoscere in altro modo. Siamo stati tutti uniti in uno spazio e per un tempo delimitato, e siamo stati costretti a parlare l'uno con l'altro. È in questo modo che si impara a conoscere l'altra persona, si impara a conoscere il suo paese, le sue bizzarre tradizioni, si impara a capire la sua religione, si impara come convivere con tutto questo. Si impara ad ascoltare, Si impara a non invadere una cultura con la propria, si impara a comunicare, e non mi riferisco solo al comunicare in un'altra lingua. Dopo grandi confusioni, si impara a comunicare rispettando. Ci sono persone che hanno imparato a convivere in una stessa casa con chi nel proprio paese non ne permette l'entrata, e persone che sono riuscite a ridere delle loro differenze, differenze che nel loro paese sarebbero state oggetto di discriminazione. Credo non ci sia modo migliore di studiare la storia e di conoscere realtà che realmente non conosciamo, e che non ci sia modo migliore per creare un futuro libero da odio e discriminazioni. Noi, che siamo fuori dall'Italia, stiamo avendo la straordinaria opportunità di guardarci intorno, di conoscere il mondo, di costruire ponti per cogliere nuove prospettive e creare nuove opportunità, e di poter portare un po' di quello che impariamo nel nostro paese. Un motivo per restare o tornare. Originale iniziativa della tech company padovana Nunic, specializzata in automation per il marketing e l'e-commerce, fondata da tre ventenni. L'azienda ha recentemente lanciato un'inedita iniziativa di reclutamento online, offrendo di premiare con 1000 euro chiunque presenterà o segnalerà un programmatore, a condizione che poi venga effettivamente assunto. Info su nunic.com/it. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti, e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo allora le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche le vostre denunce per mettervi in contatto con noi. È come sempre molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, under 40 stranieri al lavoro in Italia e giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, Giovani Talenti è la vostra trasmissione. E per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.